Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. La Juventus per il secondo anno consecutivo è campione d'Italia. L'arbitro osserva il suo cronometro, manca davvero un nulla alla fine del campionato. La Juventus è in possesso della palla. Barzagli, il triplice fischio del signor Romeo. Il 5 maggio del 2013 la Juventus conquista il suo 29esimo scudetto. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Buongiorno amici, Giorgio Luca in redazione, sono Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordate, no? La settimana era cominciata così, con la celebrazione sul campo dello scudetto numero 29-31, quest'altro discorso, e tra poco ci torneremo sopra. Era cominciata così, era la settimana dello scudetto. Oggi la Juventus con il Cagliari riceverà la consegna della Coppa di Lega, festa che Conte la Juventus vuole assolutamente composta, niente invasione di campo, sarà solo una grande celebrazione, tenendo d'occhio quei record che la Juventus può ancora stampare. Sono quattro, più importante dei quali quello del numero dei punti totalizzati in un campionato. Dunque, lunedì per divertirci abbiamo anche fatto un paio di domandine vagamente maliziose. Allora, di Conte certamente l'uomo che siede in panchina, che prende 10 sulle pagelle di tutti i giornali, che dice l'uomo Conte vorrebbe restare, il Conte professionista vorrebbe andare via, l'ha detto sabato in conferenza stampa. Però non dimentichiamo che per 15 trentottesimi è anche lo scudetto di Carrera e Alessio che hanno fatto gli allenatori della Juventus mentre Conte stava dietro quel vetro fumé. Ma francamente potrebbe anche non venire, non guardare la partita, perché in questo mese e mezzo che lavoriamo in questa maniera abbiamo affinato un metodo di telepatia veramente forte, quindi ma pensiamo nella stessa maniera, anzi adesso mi sto dicendo delle cose che sicuramente a voi non posso dire. Siamo contenti che ritorni Antonio a Palermo, contenti perché era una partita difficile, sapevamo l'importanza di questa gara, eravamo consapevoli della forza di questa squadra. Dunque, per 15 trentottesimi è loro, per loro Alessio e Carrera che hanno guidato la Juventus dalla panchina. Possiamo dire anche che in parte lo scudetto di Vidal, che è stato protagonista di questo finale, possiamo dire che è lo scudetto del comunismo reale, perché tutti sono andati in gol, hanno contribuito alla causa e non c'è una stella del gol, basta guardare la classifica cannonieri. Possiamo dire, se volete, che è lo scudetto di Mino Raiola, che ha portato Pogba alla Juventus strappandolo allo United. Si calibra bene, attenzione a Pogba, da lì può calciare Pogba, rete, un gol incredibile, Pogba fa esplodere lo Juventus Stadium, un gol da fenomeno. Pogba si libera, prova il tiro, Pogba, rete, ancora lui. Paul a 19 anni, io non ci ho pensato mezza virgola a dargli una maglia titolare, a responsabilizzarlo, perché Pollo è un giocatore che ha delle doti, delle qualità, mezzi straordinari. Beh, qualcuno dirà può essere anche lo scudetto di Bentner Anelka, oggetti misteriosi che non hanno mai visto il campo. Qualcuno dice più che mai lo scudetto della società, questa che ha saputo far fronte e fare muro di fronte alla lunga squalifica di Conte, che appunto ha pescato Pogba, che rappresenta il futuro di questa società, di questo club, sul campo, e certamente la società è cresciuta insieme a questa Juventus. Una cosa importante, il rapporto che esiste tra Antonio Conte, il presidente, tra Antonio Conte e me, tra Antonio Conte, Paratici, tutti i nostri collaboratori, è veramente ottimo. Anzi, definirei la Juventus un modello vincente, visto che abbiamo vinto per 2 anni consecutivamente. Abbiamo avuto un sacco di risposte, anche se indovinate un po', fatalmente si è scivolati poi sull'annosa questione del numero degli scudetti 31 29 29 31. Da lì non usciremo mai. Abbiamo anche avuto un ospite speciale lunedì, ve lo ricordate? Perché grazie ai nostri contatti di corridoio, al lobbying che riusciamo sempre a fare, avevamo Antonio Conte, o no? Antonio! Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a lei, ma si è asciugato? Ha preso raffreddore? Ma guarda... quanto era fredda quell'acqua? Era fredda, una doccia agghiacciante, questa doccia. Questa doccia era veramente agghiacciante. Si è arrabbiato con qualcuno oppure no? Li fa allenare domani mattina alle 8? Vabbè, no. Certo, ci giochi con l'Atalanta mercoledì, assolutamente. Il campionato bisogna onorarlo fino alla fine. No, perché sa che prima che poi magari mi dicono che la Juve non gioca fino alla fine, arriva un certo Pippo, pappa e ciccia con la procura, fa certe dichiarazioni, e allora adesso fino alla fine ce le giochiamo e botte d'orbi a tutti. onde evitare cattive sorprese, ecco. Ma oggi lei, Antonio Conte, si sente più uomo juventino o più professionista che vuole andare via? Ma guarda, ho sentito che ha creato qualche polemica questa mia dichiarazione, ma io sono uomo Antonio Conte, tifoso juventino, ma sono anche professionista. Quindi? E nel senso che non vedo perché, insomma, arriviamo chiaramente al discorso dove voglio arrivare, non vedo perché Giuseppe Mourinho, che quest'anno finirà la stagione con 0 titoli... Ma non è vero, con 0 titoli, perché... Che cos'è che vince Mourinho? Beh, ha vinto la Supercoppa di Spagna e può vincere la Coppa del Re. No? Vabbè, ma sono due cose che, dai, c'è la Coppa del Nonno, dai, su, come in Italia la Coppa Italia, cioè contano poco, diciamo, dai. Vabbè. Contano poco. Vabbè. E si dice che l'anno prossimo accesti 10 milioni di euro all'anno. Antonio Conte invece si prende il suo stipendietto, quindi insomma cerchiamo di dare ad Antonio quello che è di Antonio. Se vuole che rimane alla Juve bisogna pagarlo bene. Non dico 10 milioni di euro, ma 9,5. 9,5, dai, 9,5 tutti. Una mancetta. Mancetta. E poi voglio il top player. Chi, quale? Ma insomma, se, volando basso va bene Messi, ecco, dai. Se no Cristiano Ronaldo, dai. Vabbè, uno dei due. Magari, Cavani proprio. Magari 2 su 3. Ecco, mi ha dato un'idea, adesso la dirò a Marotta. 2 su 3. nuova condizione, nuova clausola. Dicono che oggi va a farsi la cresta come Pogba. Chi l'ha detta questa notizia? Che è vera, è vera, assolutamente vera. Io posso grazie al mio capello, che grazie a Shampoo Conte, lo ricordiamo, questo prodotto può avere delle sfaccettature particolari, posso farmi delle capigliature come voglio, però farò pure la cresta, ecco. Ero incerto tra la cresta e i 31 treccine, ma optiamo per la cresta, dai, le 31 treccine. Un'ultima cosa prima di una doccia calda. Si rende conto che questo scudetto è di Alessio Di Carrera, come dicevo prima, per 15 trentottesimi? Scusa, per 15? Trentottesimi, sono andati loro in panchina 15 volte mentre lei era dietro al vetro. Sì, perché non avevo capito bene la cosa matematica. Non è... sì, questo è vergognoso quello che dicono, scusate. Cioè, Alessio Di Carrera, con tutto rispetto, però erano... due burettini, insomma, nelle mani di Antonio Conte. Cioè, ci ho messo due amici, potevo metterci Di Vive Torricelli, Padovano e Tacchinardi. Cioè, erano due amici messi lì così per fare quello che Antonio Conte diceva. Ah, capito. Con tutto rispetto per i miei collaboratori. Certo, grandissimo rispetto. Mi rendo conto. Michele Negroni, alias Antonio Conte degli Autogol. Buongiorno a tutti, buongiorno. Questa è la tua voce vera? Questa è quella vera. E quella di Mourinho qual è? Quello di Mourinho non lo so, devi chiedere al mio collega Alessandro. Ah, devo chiedere Alessandro. Beh, un giorno venite qua e li facciamo tutti, così gli ascoltatori si arrabbiano da morire e mi vengono a picchiare con il bastone. Facciamo una bella polemica su questi scudetti, dai. Una bella polemica. Ah, lascia stare anche tu la polemica sugli scudetti, anche a solo questo. Non eri ancora nato quando... Altro che se ero nato. Eri nato. 30, non 29, 30, facciamo 30. Facciamo 30 e non se ne parla più. Grazie Michele. Grazie a voi, un saluto. Il nostro privatissimo e personalissimo Antonio Conte. Tutti convocati Magazine. No, poi al di là della festa scudetto della Juventus che continuerà di conto presunto tale, come avete sentito, è stata una settimana molto interessante, che ricorderemo anche come la prima della lunga estate calda delle panchine, perché martedì all'improvviso esce a mezza mattina questa notizia: Alex Ferguson, allenatore storico, allenatore più longevo, lascia una delle panchine più prestigiose del calcio mondiale, quella del Manchester United, dopo quasi 27 anni e dopo aver conquistato 38 titoli, tra cui 13 titoli inglesi e 2 Champions League. Allora, poi la questione è stata risolta. Tutti dicono Mourinho. No, 48 ore dopo il nome del successore, che è l'ex tecnico, ormai ex a fine stagione, sarà ex tecnico dell'Everton, Moyes. Il giorno dell'annuncio di Ferguson siamo andati a pescare Massimo Taibi, che, come ricorderete, portiere ex Milan, fu il primo giocatore italiano a giocare per i Red Devils, e con Alex Ferguson poi ci furono Giuseppe Rossi e Macheda, però il primo fu appunto Taibi. Ma il ricordo di una persona molto, molto forte, una persona che sapeva il fatto suo, una persona molto preparata e soprattutto una persona che spaziava a 360 gradi, perché il suo ruolo era manager, non solo allenatore, per cui si occupava anche di fattori societari e non... Sì, quindi grandissimo carisma, l'allenatore più carismatico del calcio insieme a José Mourinho, secondo me. Sì, lui era un carismatico, ma allo stesso tempo era uno che comunque parlava, colloquiava con la squadra, con i ragazzi, con i giocatori, solo che, come tutti d'altronde, lui in particolar modo era molto esigente. Com'era quella storia dell'asciugacapelli di Beckham? Non mi ricordo. Non c'ero io, però... Tu non c'eri, però ti faceva l'asciugacapelli. Tu non ne hai mai beccati di asciugacapelli da Sir Alex? Sì, ho beccato due o tre cazziatoni duri. Duri, insomma. Me l'ha bagnato e asciugato in 10 secondi. Massimo, ti chiedo ancora questo, visto che adesso lavori con le giovanili del Modena. Sì. Beh, sarà banale, però cosa ti sei portato da Manchester? Ma da Manchester più anche le altre squadre dove sono state in Italia, no? Perché Atalanta, Milan, l'organizzazione, il volere imporre un'organizzazione rispetto dei ruoli, questo in Inghilterra era fondamentale, e soprattutto cercare di guardare sempre più, diciamo, più in basso, no? Sì. Più piccoli, cercare di farli crescere nella tua società, perché non puoi prendere a 15-16 anni, che non è facile, ma cercare di farli crescere guardando dai 7-8 anni. Massimo, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Ciao. Dunque, questo per quanto riguarda il capitolo Ferguson. Però insomma, poi c'è stato il turno infrasettimanale, che è quello che ha di fatto chiuso il campionato per ogni discorso, praticamente. Il Milan quasi certo del suo terzo posto, il Palermo, come dicevo l'altro giorno, c'è una giustizia divina, retrocederà in Serie B, e mi dispiace per i palermitani, per i giocatori, per la squadra, anche per gli allenatori, i troppi allenatori, ma se lo merita Zamparini, perché non si può gestire in questo modo un club. Mercoledì notte è stata anche la notte degli striscioni di San Siro, delle domande, dei tazebao, di tutti, di quell'interrogatorio che è stato fatto per iscritto a Massimo Moratti. Io ci resto male quando le persone non rispondono alle domande e divento curioso. Mi avevi chiesto qualcosa? Sì, Philip, ti ho fatto una domanda. Secondo lei, perché tutto lo stadio ha applaudito i recenti striscioni della curva riguardanti la società? Perché sono stati messi in discussione gli stessi medici con cui abbiamo vinto il triplete? 2010-2013.

sì, sta pensando di fare qualcosa di forte, comunque come ha sottolineato anche lui, non so, riguardo alla protesta dei tifosi, ha detto io stesso come tifoso avrei fatto una cosa del genere, sì. Assolutamente d'accordo con comunque i tantissimi errori che sono stati fatti dal dopo triplete in poi, perché Via Crucis penso che cominci già, passato, già sì, la sera di Madrid sono, con le dichiarazioni di, siamo, di Milito, certo, e... Marco, ma su questo siamo sempre stati d'accordo, cioè e questo è un mio pensiero che posso, che ho allargato anche al Barcellona. Quando hai un allenatore così caratterizzante, quando hai raggiunto certi risultati, ci vuole il coraggio di una rottura più che la, così, il vapore della continuità. Invece è l'errore che Moratti ha fatto mettendosi al collo le pietre pesantissime di rinnovi contrattuali che sono costati un sacco di soldi e che l'Inter sta ancora pagando, e si è scivolati sempre più in basso. Questo è evidente. Il problema è che con i cinesi evaporati, con palline che rimbalzano a tutto il mondo, gli indonesiani e i russi, eccetera, eccetera, quello che, appunto, ti ripeto, anche sul fronte societario ci sarebbe da capire è quanti denari ci sono, quanto impegno ancora vuole mettere la famiglia Moratti, che cosa sarà dell'Inter, a prescindere dall'allenatore e anche dagli interpreti, anche dai giocatori. Ma penso che Moratti, appunto, con le sue dichiarazioni abbastanza marcate di ieri sera, abbia fatto capire che, indipendentemente da questi nuovi soci o investitori... Che non ci sono, no? Smentiti. Che sembrano che... Cioè, i contatti ce ne sono molti, da quanto mi risulta entro l'estate comunque dovrebbe muoversi qualcosa di positivo e non solo per il nuovo stadio, quindi dovrebbero chiudersi queste trattative che però al momento mi dicono anche con questi indonesiani appunto siano difficili, nel senso che ci sia da una parte la voglia di acquisire una quota maggioritaria, dall'altra la famiglia Moratti che non ha nessuna intenzione di perdere, diciamo, il controllo maggioritario dell'Inter, quindi c'è abbastanza un punto di domanda grosso all'orizzonte, però Morata ha fatto capire che soprattutto in campagna acquisti, al di là degli acquisti dei giocatori già presi, ha voglia di fare, quindi penso che sia questo il punto di partenza che può dare anche un po' di speranza ai tifosi dell'Inter per il futuro. Speranza non ne vedo tante in giro. Grazie Marco, grazie. Prego. Tutti convocati Magazine. Insomma, vi ho detto prima che sarà la lunga estate bollente delle panchine di cui abbiamo vissuto soltanto i prodromi, abbiamo vissuto soltanto delle anticipazioni, ma perché mica tutti sono come lo United che chiude una storia come quella di Ferguson e ne apre prontamente un'altra con Moyes strappandolo all'Everton, che peraltro Moyes ha allenato per moltissimi anni, dal 2002 a oggi, alla fine di questa stagione. No, non sono tutti così, perché quest'estate sentiremo rumori di panchine che si spostano. E c'è, in settimana abbiamo avuto Conte che ha detto l'uomo vorrebbe restare, il professionista vedrà, insomma andrà a battere cassa, non tanto in termini di soldi quanto in termini di giocatori alla Juventus. C'è Allegri che riceve le telefonate da Berlusconi e c'è poi Giorgio Squinzi, amico di Berlusconi, che ha avuto Allegri come allenatore, che dice ma Berlusconi mi dice che sostanzialmente il suo allenatore non capisce un cazzo, grosso modo, come già aveva detto, no, non mi piace perché non faccio, perché manda Sharawi in panchina. Io credo che questa storia tra Milan e Allegri sia destinata a finire. Si parla di Allegri alla Roma, ma per la Roma si parla anche di Mazzarri, che nel frattempo ha detto non so se rimarrò a Napoli, e ne ha fatto una questione di solita come l'anno scorso, di stimoli professionali eccetera eccetera eccetera, quindi c'è anche questa possibilità. Poi Mourinho andrà al Chelsea, ma prima voglio vedere il contratto firmato. C'è Ancelotti, che dove va Ancelotti? Soprattutto c'è Stramaccioni, che in tutto questo casino e nella maniera più paradossale è quello che ha le maggiori certezze di conservare il posto. Ne abbiamo parlato con Claudio Pasqualin, decano dei procuratori del pallone, e queste sono le sue opinioni. Lavoriamo per cercare di arrivare ai terzi, non è un mistero, e per arrivarci devi vincere. dentro di me so che sarò giudicato per quello che faremo. Il presidente è arrabbiato giustamente con tutti, ma lo siamo anche noi. Credo che quello che il mio lavoro sarà giudicato a fine stagione. Gianni Stramaccioni è confermata al di là di ogni risultato anche nel derby? Ma che discorsi sono, insomma, questo qui è un allenatore che ha iniziato quest'anno a farsi un'esperienza di tipo totalmente diversa da quello che aveva precedentemente, quindi è concesso anche di fare degli errori e non mi sembra che siano tutti suoi quelli che siano, che hanno fatto sì che si perdesse ieri. Conferma la fiducia incondizionata a Stramaccioni, come ha fatto anche recentemente, a prescindere da come finire la stagione? Noi stiamo facendo un campionato difficile, abbastanza drammatico da un punto di vista degli infortuni, quindi non posso fare altro che sostenerlo e fare in modo che lui riesca a inventarsi quello che è difficilmente inventabile, ma che però con un po' di fantasia magari e un po' di fortuna ci può poi girare al positivo. Allora, davvero Stramaccioni, come cantano i Verve, è un uomo fortunato? Stagione più disastrosa dell'Inter da 14 anni, eppure l'allenatore non si tocca. Molte altre volte si è toccato l'allenatore per molto meno. Oggi volevo l'opinione su questo e su molti altri argomenti da un principe del foro dei procuratori, Claudio Pasqualin. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, purtroppo sento la sua voce che va e viene. È peccato. Ho capito, buongiorno è un appellativo esagerato, quello di principe del foro dei procuratori, però... Non è esagerato perché è sulla cresta dell'onda ormai da molti anni e queste dinamiche le conosce profondamente, no? Stramaccioni è un uomo fortunato? Dire che non mi manca, no. Qualcuno si esprime... una terminologia diversa e dice che potrebbe dire che da tanti anni batto questo marciapiede, avvicinando la mia immagine non più a quella dell'avvocato ma ad altro tipo di professionista. Ma scelga lei, sono belle entrambe secondo me, eh? Ma non mi piacciono tutte e due, mi creda. Ma Stramaccioni è un uomo fortunato? È una conferma voluta o un'assenza di scelta? È un uomo fortunato per il solo fatto che allena l'Inter, cioè che sta vivendo un'esperienza di vita impensabile, alla luce della sua limitatissima esperienza, è stato beneficiato indubbiamente dalla fortuna che gli ha messo sulla strada una persona buona d'animo e comunque nei momenti di buona disposizione munifico come pochi, che è Moratti. E conseguentemente è un uomo fortunato, comunque vada a finire. Qualche chance l'ancora, ho sentito anch'io il finale del vostro servizio ultimo, con la voce autentica di Moratti dire che le chance ce l'ha, scusarlo per i troppi infortuni e quindi addebitando non a lui la causa di una posizione in classifica precaria rispetto alle attese. Quindi credo che qualche chance ce l'abbia e sarebbe comunque fortunato, anche se dovesse andargli male, però la sensazione è che finirà per dirgli bene e che un risparmioso, una volta tanto, Moratti, finirà per confermarlo. Sì, in 48 ore il Manchester United ha chiuso 27 anni di storia Ferguson e ha aperto l'era di Moyes. Come ci sarà rimasto Mourinho? Mourinho non sarà rimasto bene perché va al Chelsea. Comunque è alle spalle già Abramovic, quindi non trema. E quindi altre 20 generazioni di Mourinhini si metteranno un tetto sulla testa con l'ingaggio faraonico di Stamford Bridge. Cioè, sì, Mourinho se ne frega del Manchester, può permettersi di farlo perché è già da tempo d'accordo con il Chelsea. Sì, anche se quella panchina è quella che lui sognava più di tutti, non ha mai fatto mistero. I giocatori votano in modo plebiscitario e loro tentennano. Succede a Torino e a Milano Sponda Milan. Votano in modo plebiscitario per i loro allenatori Conte e Allegri, che però per ragioni diverse non sono così sicuri. No, sono sicurissimi. Almeno uno è certamente Conte. Sicuro, perché Conte è Juventus al 100% anche l'anno prossimo. se lo accontentano. La società cercherà piuttosto di accontentare, ma sì, ma lo accontenteranno, comunque lui ridimensionerà le richieste. Lui sa che ha un mercato infinito, però sa anche che bisogna mettersi tempestivamente sul medesimo e non andare a tappare i buchi alla fine. Certo. Ormai i giochi si stanno facendo con l'esclusione di Conte, per volontà di Conte, ben inteso, perché se Conte avesse voluto mettersi sulla piazza avrebbe indicato a un suo magari molto discreto professionista, come ha fatto Mazzari con l'avvocato Bozzo, e di muoversi. Invece, per quanto se ne sa, Conte non ha nessuno che lo rappresenti, quindi interloquisce direttamente con Marotta e con Agnelli e pensa al rinnovo e pensa a sondare il mercato dei grandi giocatori. Ha notato che non ha usato quel termine che non bisognerebbe smettessimo di usare noi tutti, top player. Sì, no, questo lo dice lei. Questo lo dico io per far capire, io l'ho notato, non se ne può più, è orribile, Se ne può più, e io ieri mi sono messo come non se ne può più, per stare in tema, di sentire dire Juventus Stadium. È latino, si dice stadium, Juventus Stadium, sì. Okay. E Matri non ne può più di sentire leggere ogni giorno che la Juventus cerca un top player, poi la picchia dentro quando lo fanno giocare e alla fine l'altro giorno ha detto vabbè, cercate questo top player, però guardate che i gol li sappiamo fare anche qui. Il Milan io credo che non confermerà Allegri, credo che arriverà un non allenatore come Seedorf. No, io credo invece che Berlusconi, come dire, negherà le sue confidenze private che evidenzierebbero una disistima nei confronti di Allegri. Per Allegri parla il terzo posto con la conseguente qualificazione, sia pure preliminari, per la Champions prossima, e quindi credo che Allegri resterà. Comunque, se cambiasse, non si vede perché dovrebbe arrivare Seedorf, insomma, no? Seedorf assolutamente inesperto e buttato là da qualche giornale, come spesso avviene, facendo dei ricami e degli arzigogoli di come dire, mettendo vicino questo, quello, facendo una serie di ragionamenti che a parer mio non sono nella mente di Berlusconi e neanche di Galliani. Le ultime due domande secche: perché Mazzarri freme come l'anno scorso? Perché è nel suo carattere, nella sua natura, è doveroso che sia, anche lui è un professionista. Credo però che alla fine, anche se qualche perplessità è legittimo averla, il fatto di fare la Champions lo potrebbe convincerlo a rimanere. Bene, l'ultima domanda è questa, caro avvocato Pasqualini, intanto io ho riflettuto, mi piaceva di più la seconda definizione, quella che mi ha dato prima. Beh, guardi che la querelo, perché mi ha definito, lei potrà difendersi dicendo che mi sono autodefinito. Si è autodefinito uomo da marciapiede. Ma è stata bellissima, lo sono anch'io, con il microfono, ma lo sono anch'io, glielo giuro. È questa la mia domanda, perché, allora, Alessandro Del Piero, qui lei è stato vicino tanti anni e mi scuso se torno sempre lì ogni volta. No, io la ringrazio, torni su Del Piero finché vuole, perché ecco, è una perla fulgida della mia collezione. Magari anche un pezzo della sua vita. Ma perché la Juventus l'ha lasciato davanti alla televisione nel giorno dello scudetto, secondo lei? Diceva, purtroppo è trapassato da poco, era il filosofo dell'ovvio. Parlo di quel catalano che diceva è sempre meglio vincere che perdere, ma quando qualcuno gli chiedeva dove andiamo, chi siamo, cosa facciamo, e lui rispondeva sempre saperlo, e quindi viene anche a me da rispondere con le parole di catalano, saperlo. Avvocato, è sempre un piacere parlare con lei, io la chiamo avvocato, l'uomo da marciapiede lo faccio io, facciamo così. Grazie a lei, buona continuazione. Grazie avvocato Pasqualino. Tutti convocati Magazine. Beh, mi è piaciuta un sacco la definizione di Claudio Pasqualin, sono tanti anni che batto questo marciapiede. Sicuramente è una battuta che facciamo nostra, perché anche noi sono molti anni che battiamo i marciapiedi dello sport e la giriamo, la gireremmo a Genegnocchi. Con lui, che abbiamo sentito in settimana, vogliamo farci quattro sane e grasse risate. Ciao Gene. Ciao. Ciao. Senti, io so che tu volevi fare calciatore per fare un sacco di soldi, giusto?